Il grande vantaggio di José Manuel Durão Barroso è che ovunque passi raccoglie consensi unanimi e sa adattarsi ad ogni evento politico. Questo giudizio è stato espresso da Antonio Vilar, professore di scienze politiche a Lisbona e vicino dell'attuale primo ministro portoghese. Opportunista ambizioso, pragmatico e negoziatore instancabile, questo è il ritratto poco edificante, a dire il vero, che si ricava dalla sua passata attività politica. Si tratta però di caratteristiche imprescindibili nelle attuali paludi dell'amministrazione europea. L'Europa di oggi non voleva un grande leader, ma una mansueta eminenza grigia, capace di decidere senza scontentare nessuno. Il suo percorso politico mostra una certa disponibilità all'evoluzione politica. All'epoca della rivoluzione che ha rovesciato Salazar, Barroso appartiene a un partito maoista. Avevo 18 anni, si giustifica. È un periodo della mia vita di cui non mi vergogno per nulla. E nel 1977 si distacca dalla sinistra passando al campo opposto, i conservatori del PSD. Inizia così una carriera di specialista delle relazioni internazionali, segretario di Stato nell'87 e ministro nel 92. Nella crisi irachena si schiera a fianco di Bush, Blair e Aznar, organizzando il vertice delle Azzorre, che sarà l'ultimo prima dell'attacco in Iraq. La scena per sua fortuna gli viene rubata dal trio ospite, ed è questo uno dei motivi che non lo rendono insopportabile agli occhi di Francia e Germania. Barroso comunque a più riprese si dimostra europeista convinto e interprete efficace dei desideri dei più, tanto da mostrarsi sempre taciturno sugli argomenti sensibili. Attento piuttosto a non suscitare polemiche, ha difeso con tutte le sue capacità diplomatiche la nascita della Costituzione europea ed è stato il primo a convocare per il marzo 2005 il referendum popolare in Portogallo per farla approvare. Sembra poi essere un sostenitore dello sviluppo di una difesa comune e del principio di uguaglianza tra Stati membri. Severo nella disciplina dei conti, da quando è capo del governo è riuscito a rimanere entro i parametri di Maastricht e malgrado questo non si è espresso per le sanzioni contro quei paesi che, come Francia, Germania e Italia, prendono le regole piuttosto alla leggera. Barroso, d'altra parte, persino in Portogallo si è meritato le prime pagine dei giornali, soltanto perché la sua candidatura è stata presentata durante la pausa in cui la nazionale portoghese semifinalista agli europei non ha giocato. Tito Gandini, reporter associati per Amisnet.